passa che siedi al primo banco. Arrivo alle 10 e mi vedi già stanco. Seduta composta o con le gambe incrociate, le mie lezioni non le mandi giù a rate. Ragazza che mi guardi dal primo banco, capisci che faccio tutto come io sento. Non so se la matematica ti appassiona o mi ascolti soltanto perché sei buona. Perché sei buona. Oggi piangi al primo banco, per quale motivo non voglio ignorarlo. Ti ha interrogato la prof di tedesco, a consolarti no, non ci riesco. Il tuo voto ti sta un po' stretto, ma tu non sei quel numero che hai letto. I tuoi sogni stanno già sbocciando, inizia a pensarci in questo momento. Scuola, in quel banco in prima fila, di occasioni ne avrai 100.